YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare. Daniele, sei preparato? Cosa vi fa ascoltare Radio Tube? L'imperdibile, l'imperdibilissimo eppure il perdibile della settimana tra TV, web TV e social TV. Ma che bravo, sei studiato. Signorino, buonasera. E lo so che tu vuoi fare, signorino, buonasera. Allora, l'hashtag è cancelletto Radio Tube. YouTube. Gli account di Twitter @MartaCagnola oppure @DiBellasio. Noi la scorsa settimana abbiamo dato il benvenuto a lei. Raffa Nazionale. Raffa è arrivata su Twitter. @Raffaele era l'account che era stato ritirato. Al contrario del calciatore, invece della fine carriera, esatto. Viene ritirato prima che lei arrivasse. Aspettando che arrivasse Raffaella, quindi il suo account è solo @Raffaella. Si è presentata con un selfie, tutto in attesa dell'inizio di The Voice numero 2. Tu hai iniziato a twittare The Voice 2 giorni prima che andassi in onda. Ma sai che mi ha telefonato Pagliarini a un certo punto dicendomi ho capito adesso cos'è #TVOI, perché lui vedeva twittare e non capiva cosa fosse TVOI. Io te l'ho detto tante volte, voi che seguite la musica ogni tanto usate degli hashtag che non sono totalmente incomprensibili. Quello dell'Eurovision lo sto ancora studiando, sembra un... Non comunque so, Raffa, diciamo, su Twitter se la cava. Su in TV se la cava... ha avuto un leggero... Ma in TV si è un attimo confusa. Cioè, adesso tutti stanno... Pro quo. Ma sì, tutti stanno postando questo video sui social. Noi non possiamo non postarlo perché è successo un piccolo... Così, durante una blind audition, perché a The Voice i cantanti si scelgono al buio. La TV inglese, sembra. Si chiama blind audition, la chiamano così. Un'audizione al buio, perché non li vedi in faccia. Lei ha ascoltato il cantante e ha avuto un momento di sorpresa che tutti hanno ripreso in rete, su Twitter, su Facebook. Il video è stato poi ripreso in tutti i modi. Ecco cosa è successo nella prima puntata di The Voice. Come ti chiami? Simone. Ah, sei maschio? Sì. Ah! È per quello che dico no! Raffa! Ragazzi, non capisco più niente io! Povera Raffa! Ma aveva capito, ma è tutto per l'audience! Ma no, povera Raffa! Ma è alla Mike, maestro Mike! Magari non era tanto vicino, poi polemiche, ma poverino, lei era un po' lontano, non aveva capito che era dalla voce. Ma soprattutto quanto ridevano gli altri, come si chiamano lì, arbitri, giudici, coach. Sempre in inglese, dai questo inglese, dai con dai. Comunque, cioè, gli altri ridevano, c'era lì J-Ax si chiama, cioè stava male da ridere. Ma è una trovata per l'audience, che tra l'altro credo sia andato bene. È andato 11%, è andato bene, sì, un bel inizio, dai. Comunque, insomma. Ma lei poi è una signora. Non... L'importante, lei ha detto che... Allora, non dite che The Voice è buonista. La rete dice che The Voice è buonista, non è vero. Perché secondo lei... E chi sarebbe il cattivo? Nessun cattivo, perché lei dice ci vuole buona educazione. Questo è giusto. L'abbiamo incontrato di persona. Tu dai, io magari. Di persona. Io mi sono prostrata di fronte a Raffaella, che ha spiegato proprio questa cosa della buona educazione, perché si fa così. E poi non ho potuto non chiederle di questo suo sbarco su Twitter. Eccola qua. Io non lo so se sia molto importante, però ho voluto spiegare il nostro atteggiamento, perché tu non puoi massacrare un ragazzo o una ragazza che stanno tremando dietro le nostre poltrone e le ascoltiamo di spalle, quindi già anche questo per un ragazzo che canta, andateglielo a chiedere come si sente a cantare con delle poltrone girate, sperando che noi si pigi il bottone. Io credo che quando devi dire no, se devi dire sì, il problema non esiste, pigi il bottone e quello l'hai preso, ok, ma quando devi dire no, è bene poter entrare in un modo gentile. Tu resti e purtroppo tu hai una bella voce, perché chi è scelto per fare The Voice ha comunque una bella voce, e quindi dobbiamo, come dire, dare a lei o a lui la nostra stima, ma secondo noi non è parte di quello che pensiamo di costruire per i cantanti che sono in gara. C'è da dire che però questi tempi sono un po' più nervosi, ad esempio sui social network, su Twitter. Lei è recentemente arrivata su Twitter col suo primo selfie. La gente è un po' più nervosa, un po' più... La gente è nervosa, certo, non per The Voice, ma per come va la situazione italiana. Per questo la gente è più nervosa. Però io Twitter l'ho provato per la prima volta un po' di giorni fa e mi fa un'impressione pazzesca. Sono su Twitter per colpa di J-Ax, di Noemi e di Piero, perché... Io nella mia, come dire, in fondo intimità non avrei mai pensato di entrare in questo mondo. Ma poi ho visto che questo telefonino aveva domande. Allora ho detto, ma rispondiamo a qualcuno almeno. Ed è un rapporto carino. Ora, ci sono persone che insultano, beh, io tanto non li leggo tutti, ne rispondo un po'. Non si può piacere a tutti, perché il consenso globale è pericolosissimo, però almeno avere la buona educazione di rispondere a quelli che ai quali puoi rispondere. Capito? La buona educazione di rispondere su Twitter. Lei ha questo approccio ai social network che a me piace tanto. Mi scrivono, io per buona educazione rispondo. Sì, tra l'altro è anche il modo migliore per ottenere ulteriore consenso. Sai che secondo me ha detto una cosa giustissima? Sai che secondo me la buona educazione fa più audience della cattiva? Perché tutti dicono, ah, bisogna un po' litigare perché così l'ascolto. Sì, quello è un picco. Però dimostra Raffaella Carrà che per avere invece un audience, un consenso e un successo duraturo nel tempo, la buona educazione, e non è buonismo, è la verità, funziona di più. YouTube. Allora, rieccoci insieme per parlare di un personaggio di cui ultimamente, Daniele, non parliamo mai, ma qualcuno ci accuserà di parlarne troppo. Ma come si fa a non parlarne? Scusa, ma se tra notizie vere e parodie sui siti internet di qualunque testata ci sono 4, 5, 7, 8 immagini sue, purtroppo vuol dire che la rete funziona in questo modo qui. Dobbiamo parlarne. Quindi Matteo Renzi ha fatto hashtag la svolta buona. Dov'è la svolta buona? Sai che Diego Bianchi, cioè Zoro, con il tassista Missouri 4 hanno cercato di andare verso la svolta buona? Ci hanno provato e non l'hanno trovata. Svolta a destra o a sinistra? Vediamo. Sentiamo cosa ha detto il navigatore di Gazebo. Vai. Teatro delle vittorie, svolta buona. Che strada te dà? La stessa. La solita. Questa non ha capito che è cambiata l'aria. Allora qua abbiamo capito. Butta sta cosa, va. Rottiamo sta cosa a fare, va. Via. Ma stupendo proprio, guarda. Ecco. Soldi sugli italiani, finalmente. Una legge elettorale, finalmente. Dice che ti piace, lascia fa. Ah, se fa presto a criticare, falla tu. Dai, Matteo! Pensa se ne ha trovati. Immagino. Non ci tornasse a casa, eh? Pensa se non li ha trovati, non ci tornasse a casa. Ormai, al tempo di queste cose che noi raccontiamo qui a RadioTube, il successo di una qualunque idea di comunicazione è direttamente proporzionale alle sue parodie. Ma a proposito di parodie, lui riesce a farsi credere nelle cose più assurde che riesce a scrivere, e poi deve spiegare, sto scherzando, perché yes, è credibilissimo nelle cose assurde che scrive. E ha inventato un genere. Il genere del tweet, che è un fake, oddio troppe parole inglesi, cioè un falso di un'agenzia, di un'ANSA. Io vi vorrei leggere la sua bio di Twitter prima, ecco, di presentarlo. Il profilo. 41 anni, capo servizio degli interni alla stampa, papà di Pietro e Vittoria. Qualsiasi cosa io scriva in maiuscolo è solo una battuta. Buonasera Alberto Infelice. Buonasera a voi. L'ho dovuto specificare perché all'inizio erano soltanto diciamo i lettori che mi chiedevano se erano notizie vere o false. A un certo punto hanno iniziato a chiamarmi i colleghi. No, perché credevano a quello che vi dicevano, ma non l'ho trovata questa agenzia. Esattamente questo, mi chiedevano, ma scusa, ma questa dove è uscita? Perché noi non ce l'abbiamo, stiamo facendo una pagina. Mercoledì prossimo Matteo Renzi visiterà la scuola media Matteo Renzi. Bellissimo. Si è portato avanti. È sicuramente la sua scuola preferita. Non c'è dubbio. Alberto, abbiamo sentito la svolta buona, che era già l'hashtag. Rottama sta a fare, perché Diego Bianchi riprende tutti i modi di dire. Daje, che poi era passato al PD. Efficacissimo. Beh, Daje è diventato uno slogan di una campagna elettorale del sindaco Marino. È certo. Ma sul Daje di Marino, il Daje di Marino è probabilmente stata una delle cose più divertenti dell'ultimo anno, perché essendo lui non romano, continua a sbagliare cose su Roma, per cui c'era questa parodia in cui lo si prendeva in giro perché diceva Daje invece di Daje. Era francese, era un francesismo. Io vorrei farvi però ascoltare, anzi vedere, un pezzettino della prima conferenza stampa da premier di Matteo Renzi. Quella seria. Pompa, quella seria. Stiamo parlando del Presidente del Consiglio. Quella seria non è una parodia. Ecco, ad esempio, cos'è successo? Lo so che è un pezzettino che dice molto. Eccolo qua. Le riforme di cui non parliamo oggi sono, per essere chiari, ve ne accenniamo qualcuna per dirvi di che cosa stiamo parlando. Mettere online ogni... Io vi vedo entusiasti, però non capisco... Mi fa piacere. Effettivamente il tema del pesce rosso è il punto fondamentale di questa... Però mi fa piacere che almeno siete contenti, siete di buon umore. C'era da bandiera rossa al pesce rosso. Vabbè. No, cosa c'è? Dobbiamo spiegarlo un po'. Dobbiamo in spiegarlo. Una delle slide, delle mitiche slides, pare riprese da Obama, ha raccontato Luca Salvioli sul sito internet del Sole 24 Ore, c'era un pesce rosso. Che cos'è che faceva? Saltava, no? Allora, il pesce rosso saltava e Proforma, l'agenzia che collabora con Renzi e ha creato queste slide, ha spiegato che il pesce rosso è notoriamente muto e lui dice il tema era le riforme di cui non parleremo. È già tutto pronto per la rete. Poesia. Alberto, è già tutto pronto per la rete. Ma lui è fantastico perché riesce in due operazioni allo stesso tempo. La prima è quello che un po' dicono tutti, lui non parla ai giornalisti quando fa le conferenze stampa, quando fa gli incontri, i comizi, lui parla alla gente. Ed è ovvio che poi anche in sedi istituzionali i giornalisti ridacchino perché eravamo stati abituati a ben altre conferenze stampa. Lui però il risultato lo ottiene perché ha un messaggio molto diretto, molto semplificato per non dire banale, che però arriva molto in fretta. Il secondo risultato per me è ancora più straordinario perché lui trasuda antipatia per i giornalisti, circomediatico, però fa esattamente l'opposto di D'Alema, il suo grande amico o nemico. D'Alema aveva in profondo disprezzo il circomediatico. Io credo che Matteo Renzi soffra o viva un odio molto simile, un fastidio molto simile, ma lo trasforma, lo fa diventare invece un'occasione di cazzeggio, di divertimento. Lui flirta con il fastidio che prova e il fastidio che di rimando provano i giornalisti. Tra l'altro lui parla molto come scrive i tweet, cioè parla dicendo delle cose che contengono almeno un titolo, spesso ripete delle parole continuamente come fossero hashtag e su Twitter, tra l'altro, convoca conferenze stampa, dice arrivo dal Quirinale, addirittura le consultazioni si sono avviate con un suo tweet, ma anche fa delle cose tipo parlare con persone che gli... Con personaggi famosi, con conduttori televisivi. Il tuo conduttore di Mediaset preferito, Gerry Scotti, gli ha scritto su Twitter, l'ha raccontato proprio lo stesso Matteo Renzi a Porta a Porta, ecco qua. Mi ha scritto via Twitter Gerry Scotti. E dice, ma perché? No, vuole essere assunto. Gerry Scotti non ha di questi problemi, ora mi scuserà la Rai se faccio pubblicità a un conduttore. E peraltro, siamo apertissimi, amici Gerry Scotti. Non so, poi io sono un grandissimo amico di Carlo Conti, come è noto. A lei fa parte di quel giro, Panariello, Conti? Io sapevo, erano tre, ma adesso sono quattro. Sono. Loro fanno ridere, Conti, io spero di non far piangere, ma contenterei. Il punto qual è? Gerry Scotti mi ha scritto un'email su Twitter, un messaggio privato, un direct message, e mi ha scritto: io sono stato parlamentare per 5 anni. Lui è stato parlamentare dall'87 al 92. mi pare di ricordare, 82. Io voglio rinunciare al vitalizio da parlamentare. Non lo voglio, non riesco a farlo. Beh, non solo Matteo Renzi ha cambiato il modo di comunicare, uno come Bruno Vespa, esatto, deve cambiare completamente. Si è renzizzato. Sì, perché cioè, non può parlare con Matteo Renzi così come parlava con i vecchi politici. Hai notato l'endorsement interlineare per Carlo Conti a Sanremo 2015? Ma noi siamo già pronti per... No, secondo me... Vabbè. Siamo già pronti. Ma sai che io speravo che venisse anche Alberto Infelice a Sanremo, glielo scrivevo sempre. Ma dovevo venire quest'anno, poi ci sono stati dei cambiamenti di turni, diciamo. Ma comunque volevo dirvi che... Questo endorsement per Carlo Conti c'è una cosa tipica di Renzi, cioè lui dice, fa annusare questa cosa che sarebbe del giro di Carlo Conti, di Pieraccioni, cosa assolutamente falsa se non altro per motivi anagrafici, l'unica cosa che li tiene uniti è che sono fiorentini e quindi probabilmente si sono visti in qualche occasione, ma il renzismo è esattamente l'opposto del pieraccionismo e di quel gruppo lì. Quello è un gruppo di comici, di attori, se mi passate il termine, cazzari, di gente che ha costruito una fortuna facendo ridere. Lui si appropria, e questo è tipico della sua, del suo stile, si appropria di cose che penso possano essere utili per lui. Anche questa cosa di Gerry Scotti lo è. Quale altro politico, soprattutto di sinistra, avrebbe citato Gerry Scotti, che per anni è stato un simbolo del berlusconismo più vivace e più forte? Lui lo fa perché sa benissimo che Gerry Scotti è popolare. Eh sì. Appropriarsi anche delle parodie. Vorrei concludere, visto che siamo quasi alla pausa, facendovi ascoltare... E sempre a Firenze restiamo. Sempre a Firenze perché restiamo. Perché il fiorentinismo di Renzi pesa. Abbiamo parlato nella scorsa trasmissione della parodia di Maria Elena Boschi. Il ministro che più emerge in questa fase. Diciamolo. Poco ma sicuro, Alberto, per vero? Tante ragioni. Beh, emerge parecchio, perché appunto è più che per questa cosa che è bella per i vestiti appariscenti, perché è giovane ed è assolutamente fuori dal linguaggio classico della politica. Ecco qua come ha risposto alle presunte critiche sulla sua parodia. Le ha detto: a me ha fatto comunque piacere, ma ecco cosa ha detto alle invasioni barbariche. Se ho gli occhi azzurri o altre cose, è merito della mia mamma, chiaramente del mio babbo. Io vorrei essere valutata per il lavoro che faccio io, con una battuta sulle riforme più che sulle forme. E io a questo punto però farei partire anche la musichina, perché ci sta la musichina quella. Beh dai, ci sta. Ormai a me parte sempre dopo Virginia Raffaele, un uomo e una donna. Io battuta pronta comunque. Tu però dicevi che vuoi essere giudicata. Io voglio essere giudicata anche per le forme. Io ci tengo anche sì, quello. Ma non pensare che sia un'esclusiva solo femminile. Fantastico. Io però vorrei salutare Alberto Infelice con quello che secondo me è il tweet il più bello degli... Io ci ho messo una stellina sola perché non ne posso Best mettere più tweet. Di una. Vi ricordate qualche settimana fa i bambini vestiti da papa a Piazza San Pietro? Sì, ebbene, certo. Alberto Infelice ha twittato: in Piazza Colonna Renzi bacia un bambino vestito da Renzi. È bellissimo. E soprattutto io impazzisco all'idea che qualcuno chiami Alberto Infelice e gli chieda: Alberto, ma dov'è uscita dov'è questa? Uscita? Beh, questa è stata una delle volte in cui mi hanno scritto. No, non ci posso no, credere. No, stupendo. Bellissimo. Guarda, non ti io chiediamo chi è stato per... Ah, okay. Però ho ricevuto 4-5 persone che mi hanno scritto: ma non è possibile, questo si è veramente montato la testa, vuole fare come il Papa. Il problema è che Renzi non vorrebbe mai fare come il Papa, perché sarebbe una diminuzio. Straordinario. Anche se la possibilità di un incontro tra Renzi e Papa Francesco sarebbe veramente una cosa straordinaria, perché ci camperemmo per mesi, per anni probabilmente, perché sarebbe divertentissimo. Non ho dubbi, io devo purtroppo salutare Alberto Infelice perché noi dobbiamo fermarci per qualche minuto, però seguite @ Alberto Infelice, non è solo capo servizio degli interni alla Stampa, ma è anche quello che quando scrive in maiuscolo sta facendo una battuta. Grazie, ciao. Buona serata Alberto. Saluti a tutti, ciao. YouTube. Ma che bello parlare di politica con Alberto Infelice, che è bravissimo, le sue finte agenzie mi piacciono tanto, e soprattutto passato i minuti della pausa cantando Un uomo e una donna. Ah, che bella questa canzone che mi ricorda. Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo parlato di politica, basta politica però. No, adesso, esatto, dai. Veniamo. Qual abbiamo è degli ospiti. E qual è? No. Le lo diciamo dopo. Allora, intanto ci ascoltiamo il trailer e poi vi presentiamo i nostri straordinari ospiti. Onoranze funebri tecnologiche Highlander. Come cazzo è scritta Highlander? Sembra un centro scommesse. Dai, ma mi ci metti? Ma ci pensi che tra poco ti sposi? Figlio, figlio, figlio, figlio. Questo deve morire. Cosa? A Balenzi mangi il tonno. Che si mangia la simenda? Speriamo che vada tutto bene. E vediamola sta porcellina locale. Clic, capito? Ma non sono io, ma che non vedi che non sono io? Ce ne dobbiamo andare da qua, tu non puoi stare più. Ti fidi di me quando ti porto al cinema? Sempre mi fido. Questa volta ti porto, vabbè, anche tra qualche porti giorno. Porti bene, Marta porta bene. Io porto sempre bene. Tra qualche giorno, non subito, dobbiamo aspettare il 20 marzo, ma siamo quasi pronti, arrivano al cinema. Io già vedo le orde degli ultra che ci stanno travolgendo. Pio e Amedeo, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Mi sono ammazzata da ridere già solo a vedere il trailer. Me lo raccontate? Ce lo raccontate il film? No, il film non si può raccontare altrimenti. Come no? Dai, solo il finale, dai. No. Ah, allora, diteci chi è l'assassino e basta, poi ce ne andiamo. Non è il maggiordomo, che cioè, di solito è sempre il maggiordomo. No, non è lui stavolta. No, a parte gli scherzi, non c'è nessun assassino ed è l'unica cosa che manca in questo film, perché poi c'è di tutto. Beh, c'è il pappagallo. C'è un pappagallo che è il pappagallo del grande Massimo Popolizio. Noi penso abbiamo nel nostro primo film uno che sta in un film che ha vinto l'Oscar. Tu pensa un po' come cavolo l'Oscar. Stiamo finendo l'Oscar, il rapporto con l'Oscar. Vabbè, chiederemo qualcosa cosa, anche questo. Vabbè. Calciatori. No, un calciatore di una squadra. Squadra molto forte, una squadra, sì, il Real Zapponeta, che è una squadra che milita nel campionato dilettantissimo, credo. Che lui è un promesso sposo. Promesso sposo potenziale cornuto, sì, cioè io. Che lui, cioè sono i vecchi. Sì, che poi pure nella vita, cioè. No, non si dice. No, dai, non è così. Queste cose tristi le lasciamo fuori, questi problemi. No, poi no, se ne parliamo dopo, ma insomma. Che scopre? Magari avete un'altra trasmissione dove uno si sfoga. Ma è sempre questa, non ti preoccupare, è sempre questa. Sempre questa. Voi siete amatissimi perché siete conosciutissimi in TV come gli ultra delle Iene, eccetera eccetera. Non vi fa paura il grande schermo? Boom. Assolutamente sì. Cioè, è inutile fare i fighi. No, no, siamo sereni. Non è vero, ci stiamo cagando, cioè, sì, no, si può dire che stiamo facendo. Ma sì, è il castico. Scrivi castico che... Tra l'altro voi avete avuto il sostegno in rete di alcuni calciatori. Gigi ci vuole dire una cosa. Gigi, che devi dire? Beh, dal 20 marzo mi raccomando, tutti al cinema per il film di Pio Amedeo, perché ragazzi è un qualcosa di imperdibile. Bomba Gigi, bomba. Cosa posso dire? Probabilmente supererà il record di incassi anche di Titanic. Meglio di Pogba nudo, di. Meglio di Pogba nudo in erezione. In erezione. Tu, come devi sapere, i calciatori hanno 5 neuroni sparsi nel cervello a testa. Loro sono i primi fan. No, è vero, cioè, altrimenti non possono fare i calciatori. Proprio una peculiarità. Ma guarda che ci saranno proteste adesso. Per raggiù, vabbè, c'è San Siro. Abbiamo vicini. Tanti calciatori amici. Ma lo so, però sono tutti, cioè, diciamo, sono presi da altre cose, quindi non hanno il tempo di. E quindi piacciamo noi i calciatori. Tu pensa un po', loro sono, cioè, abbiamo tanti calciatori che sono diventati i nostri fan grazie a questa cosa degli ultras, perché vedono negli ultras dei VIP, quello che facevamo noi alle Iene, la parte buona del calcio. Perché noi abbiamo preso proprio la parte buona, cioè offendere in maniera delicata, diciamo, non perché si parla tanto delle fazioni cattive della tifoseria, quei cori brutti, quelle senza rispetto per niente e per nessuno. Noi siamo la parte buona, quella parte goliardica. Ma del anche tifo. Nel film, da quel poco che si può capire dal trailer, da quello che si legge, sembra che voi volete trovare la parte buona dei nostri difetti, dei difetti degli italiani, è così? Ma sì, anche sì, perché sì, no? Sì, sì, sì. C'è, come dicevo prima, c'è un po' di tutto in questo film. C'è anche un bel po' scorretto. Cioè, sì. Posso dire scorretto con, sì, con intelligenza. Se mi faccio un complimento da solo. Cioè, non certo. È una scorrettezza gratuita. Tipo, si va addosso agli animalisti che tutelano il panda. E noi ci poniamo la domanda: perché difendere il panda quando abbiamo problema con il maiale che diventa porchetta? Cioè, difendiamo a sto punto pure il maiale che si mangia anche sì. I paraurti delle 127, cioè nel senso non c'è più rispetto perché per i bovini non c'è rispetto mentre per tutta questa difesa per un panda, perché il sindacato dei panda è più forte. Ho capito. C'è la Fiat di Re Panda mi sta dicendo no. No, forse perché la bracciola di panda non è tanto gustosa. Beh, comunque è anche scorretto il negozio che è lì nel film. Io sbaglio l'insegna del negozio di Oranze Funi, però viene benissimo. Highlander che richiama un po' le scommesse calcistiche, under, over, che bello che fanno. Sta spiegando la battuta, capito? Questo no, perché in radio non si vede la scritta. Non abbiamo ancora detto nemmeno il titolo. Siamo fantastici. Amici come noi. Ah, lo so, ma già che lo sai tu. Che voce. ragazzi, un produttore, insomma Pietro Valsecchi, che ha portato fortuna e che ha scoperto cinematograficamente anche un certo Checco Zalone, peraltro vostro conterraneo. Sì. Ma che cosa c'è nell'aria in Puglia? Che cosa si respira? Perché Madonna, non abbiamo niente da fare. Vero, questa, non avendo niente da fare, uno si mette a fare queste cavolate qua. E quindi c'è, nel senso, si diletta e si specializza nel cazzeggio. No, secondo me invece è il fatto che davvero non si ha niente da perdere, quindi la maggior parte di persone vanno via e si ha un po' più di coraggio, ma non rispetto a quelli del nord, per l'amor del cielo, anche perché uno dalla Lombardia dove va? Va in Germania a fare queste cose, invece noi dalla Puglia possiamo arrivare in Lombardia piuttosto che in altre regioni e abbiamo più possibilità. Non è che i pugliesi sono il top rispetto ai campani piuttosto che altri, cioè abbiamo questa voglia di andare via e sta andando bene, gira bene per la Puglia, soprattutto per la comicità. Perché tanti, ma secondo me c'è anche un discorso di lingue, ci sono fasi in cui nel cinema, nella comicità, vanno a certe inflessioni, un certo modo di dire le battute. Sì. Giochiamo con la lingua perché non cioè, ci viene proprio spontaneo, come puoi vedere. Cioè, lo so che gli ascoltatori adesso staranno pensando: ma dopo come ha cambiato da quando sta a Milano che parla bene? Ma mi sto impegnando a fare questo accento qua. Perché di solito io c'ha la dizione perfetta lui. Anche peraltro nello scherzo, c'è di mezzo la lingua. Vabbè, diciamo questa cosa dello scherzo. Ma togliamoci il pensiero, perché no, noi a Radio 24 siamo i maestri degli scherzi. Cioè, noi io e noi, te noi, ancora, noi siamo. Anche se abbiamo il telefono, lo sapete adesso? Abbiamo il telefono. Chi? Il premio Paolo Oscar Sorrentino. No, che c'è rimasto male, sta prendendo il Prozac da 10 giorni. No. Passa c'è Sorrentino. Secondo me dopo aver vinto l'Oscar non ha bisogno di quelle cose. Ma vabbè, sì, visto che a Radio 24 riusciamo a fare di tutto, non diciamo chi, con gli scherzi telefonici. Voi avete fatto uno scherzo che ha fatto particolarmente discutere la scorsa settimana a Paolo Sorrentino. Non basta manco un minuto e il manager entusiasta conferma l'interesse di Paolona ad incontrare Leonardo DiCaprio. Vai. Paolo! Paolo, siamo stati noi, ma è tutto uno scherzo. Ma non devo vedere di qua. Ce la faccio. È circolato tantissimo. A me personalmente poi mi è dispiaciuto. Cioè, anzi, faccio un appello a Paolo affinché ci convolga nel suo prossimo film. C'è solo Michael Caine, comunque, tutto sommato, alla fine. Ma sì. Anche a DiCaprio, che si conosce bene con Sorrentino, se può spendere una buona parola. Potete chiamare il manager, visto che lo conoscete bene. No, io immagino la scena in macchina, il ritorno dopo lo scherzo, perché alla fine chi ha colpa, tra virgolette, in tutto questo è stato il manager che ci è cascato palesemente, quindi Sorrentino è semplicemente una vittima, perché noi all'inizio abbiamo parlato col manager. Immagino il macchina, il ritorno, il manager che prova a parlare, Sorrentino che gli dice stat zit, che fa una stronzata. Non sono bravo al napoletano, però immagino questa scena. Tra l'altro Sorrentino guidava, quindi. Sì. Beh, però l'anno prossimo quando vincerete l'Oscar avete detto, no, che sì, nel senso il nostro obiettivo è dichiarato, no? È proprio quello là, perché cioè, nel senso è proprio noi abbiamo fatto il film non tanto per il film, esatto, ma per andare a vincere l'Oscar e poi salutare da lì Paolo Sorrentino e fare pace. È perché noi siamo superiori. Sorrentino superiori. Invece quindi di Fellini. Noi ringrazieremo Ciccio Baiano. Ciccio Baiano, grandissimo. Noi siamo di Foggia, noi ringraziamo Ciccio Baiano. Beh, Imodà. Mia zia che ci tiene, che si vede sempre la notte, sta sempre sveglia a vedere gli Oscar. Sì. E poi saluteremo a Paolo Sorrentino. I Modà, perché la colonna sonora. I Modà, certo, perché la differenza con Checco Zalone è che Checco Zalone si sa scrivere le sue canzoni, invece devo prendere i Modà. E quindi siamo a dare un'imbeccata, perché oltre ai Modà c'è anche una canzone di Checco Zalone nel nostro film, Fuggi da Foggia. Quella è proprio quella incisa con Luca. Con Luca. Dice, a me Luca l'aveva già detto Checco Zalone, io lo sapevo. Che poi l'altra è nata una sera a cena di Valsecchi, ubriachi, noi dopo una cena a casa di Pietro. C'era anche Paolo Sorrentino, no? No, non c'era Paolo Sorrentino non c'è mai quando ci si diverte. Lui sta depresso a casa a vedersi le repliche della corrida col Brodino il sabato sera. È una persona così. No, è così. Diritto di replica. Io dico ma ride pure uno che prende 1000 euro al mese a Stand Arriva Fino. Uno che vince l'Oscar può mai prendersela il giorno dopo per uno scherzo? Ma secondo me altri. Perché lui con la testa stava già al fatto che doveva andare a qualche giallo-oro, a qualche compro-oro a squagliare la statuetta per la crisi. Gliel'avete detto anche. Comunque state lì e è nata la canzone. Noi veniamo dopo. Cioè, per Pietro Valsecchi, noi veniamo dopo Checco Zalone che ha fatto 52 milioni di incasso. Sì. Cioè, noi facciamo sempre questo esempio: è come quando una donna va con Rocco Siffredi, dopo che arrivi tu, c'è una pacca sulla spalla. Vabbè, sì, bravino, ma mica c'è, ma la puoi mettere sul romanzo. C'è Rocco prima, cioè tu dove vai? Cioè, nel senso, si può giocare altre partite. Sì, tipo. Vabbè, tu dici, la mettiamo sull'amore, sulle cocco. Sull'amore, un altro tipo di comicità. Sui grattini giochiamo. Vabbè, mi sa che ci progetti per il futuro. Esatto, progetti per il futuro. Progetti per il futuro. Beh, Sorrentino, Michael Caine, Rocco Siffredi. Prossimo film o il prossimo? Prossimo scherzo, uno dei due, ditecelo. Ah no, il film andrà il 20 marzo, sì. Amici come noi, amici tutti come noi. La prossima cosa che si vedrà alle Iene, ne approfitto, sarà Due Meridionali ad Hollywood. Noi ultimamente abbiamo intrapreso questo filone, facciamo i Due Meridionali, non è solo il Meridionale, anche il Settentrione, è un po' l'italiano medio, ecco, anche sbagliato esatto. Dire Due Meridionali. E quindi andiamo ad Hollywood e lì abbiamo beccato di tutto. Sì, sì. Come dice lui, nell'accezione non proprio positivissima della lo so. Però l'italiano medio è anche quello, quello va all'estero col costumino, con lo zoccolo di legno e col borsello di Louis Vuitton taroccato. Quando ci ha visto Rigidi Beautiful entrare a casa sua, era il giorno del suo compleanno, vestiti così, cioè non l'ha presa proprio benissimo. Tra l'altro compiva 62 anni e ammazza. Era più giovane di me. Poi deve stare lontano dalle fonti di calore lui. Ma si aiuta, esatto. Si può sciogliere da un momento. Ed è stato bellissimo perché si incazzava perché noi continuavamo a chiamare Ridge. No, detto, Ron, mi chiamo Ron Moss. Dopo 20 minuti neanche me Ridge, poi ti facciamo sapere quando esce. Ho capito, ma se uno fa 25 anni la stessa parte, Marta. Io li terrei qua altri 2-3 giorni, ma non si può. Qui, anche perché sono, posso dire, sono anche due gran bei ragazzi. Lo posso dire. Quale preferisci? No, qui non si può sempre tutti uguali. Dillo, faccio un po' di pubblicità. Vuoi dire la voce dell'uno, lo sguardo dell'altro? Sono due bei ragazzi, non lo dirò. Le ascoltatrici si devono fidare. Oppure, 20 marzo. Al cinema, amici come noi, come loro, come noi. Come noi. Grazie a Pio Amedeo, buonasera. Ah, grazie a voi per l'ospitalità. A proposito di volevo avvisare che esce il nostro poster nel Cioè la settimana prossima. Bellissimo. Fare qualcosa vestiti che... o nudi? Ovviamente a mezzo busto, fino al collo, fino come al collo. Come Lily Gruber, a mezzo busto. Ciao. Ciao. YouTube. Qualche istante fa, poco prima che partisse la sigla, Daniele Bellasio mi ha chiesto cosa dobbiamo fare adesso. L'amore. No, infatti, vai veloce se devi dire come passa il tempo. Ci siamo divertiti perché voglio sapere tutto della tua infanzia. Adesso si parla di baci, baci in discoteca, baci a prima vista, baci con uno che incontri per strada. Non parliamo dei primi baci, anche se io ho fatto coming out sul primo bacio, l'ho sempre proclamato quando è stato il primo, ma non interessa agli ascoltatori. Non interessa, quando è stato ma il mio vediamo, primo bacio. Mandiamo il contributo, l'RVM, il primo le cose. Bacio. No, il primo bacio con un cioè, estraneo. Cioè hai scritto, scusa, tu su Twitter, nel giorno in cui tutti parlavano di quell'annuncio, di quel signore, io Olimpio, ti amo per Letizia, l'anniversario, tu sei riuscita a scrivere dove sta il product. Com'è? Product placement. Io ho subito pensato che fosse una pubblicità. Ma io lo so che sono cinica. Ma che sei la rovina del cioè, lo so. Sì. Non lo so, fallirebbe il miele, qualunque tipo di miele con te, perché un minimo di dolcezza. Niente, comunque, niente. No, è che questo io... invece, quello di cui stiamo per parlare. Vedi caso, tutti commossi, era una pubblicità. Ma no, commossi, era bella, era una bella idea. Ma vedi, infatti ha avuto subito la parodia, subito. Guardiamo insieme un pezzettino. Ci sono di due che si baciano in un che, modo che cominciamo che a guardarlo scopri intanto... la famiglia tradizionale. Non parliamo che non è il momento. Allora, guardiamo insieme questo video che noi sottotitoleremo a voce. Eh sì, come fai a spiegare dei baci? Eccolo qua. Hi. Hi. Yeah. Vabbè, l'audio si capisce che loro sono un po'... La coppia con lei con i ricci si bacia in un modo. Andate su Twitter. Vabbè, tanto ha 37 milioni di visualizzazioni. Adesso non so a quanti siamo, non ho controllato, ma tantissime visualizzazioni per questo video che si chiama First Kiss. First Kiss. Primo bacio. Sono 20 estranei, sono coppie. Presunti estranei. No, etero, omo, uomini, donne, che si incontrano per la prima volta e si baciano. Sì. E tutti in rete a dire. Cioè, un po' si presentano, alcuni si salutano. Ciao, sì, come sì, stai? Sì, sì, perché tutti che mettono davanti un estraneo e via che ci... Dar di limone. Ah, si può dire? Dar di limone, beh, termine tecnico. Tecnico, tutti a dire che carini, che bello, l'emozione del primo bacio, pici pici, io subito cinica, e infatti era una pubblicità. Questa volta, ma Olimpio no era la pubblicità di vestiti, pare. Di questo Ren, at Ren Studio, praticamente già dicono che potrebbe essere il video pubblicitario di moda, perché è una casa di moda, di maggior successo della storia. Beh, diciamo che la storia non è vastissima, ma se si pensa la storia che... dei baci, dici? Beh, no, dai, la storia dei video pubblicitari di moda. Ah. Se tu pensi che Louis Vuitton, per arrivare a 33 milioni di visite di L'Invitation au Voyage, ci ha messo 4 mesi e ci ha speso un sacco di soldi. Invece questo video subito grande successo. Sai che quando l'ho visto, la prima cosa che mi è venuta in mente è contemporaneamente una cosa bella e una cosa che mi fa un po' paura. Cioè, sulla rete basta davvero avere un'idea. Dopo che l'hai avuta, se l'idea è buona, ha questa propagazione positiva che ti fa sentire in pace con te stesso e anche un po' sorridere. E poi chiederemo però a Ren se questa idea ha portato anche un frutto dal punto di vista economico. Un frutto sicuramente. No, un frutto no, perché... Qualcuno si sarà anche fidanzato. Dopo certi baci, quella coppia lì, che è quella che sta in mezzo, andate a vedere, quella coppia lì, secondo me, no, niente, si amavano. Ma erano attori. Ma no, ma non ci si può baciare per finta in quel modo. Bellato, sei troppo romantico. Vabbè, io ci credo ancora. Io vorrei subito parlare delle parodie. E qui si dimostra un'idea funziona se c'è una parodia. Quindi invitiamo tutti a fare dei fake dei nostri account Twitter. @ Marta Cagnola, @ Di Bellasio, #. Il romantico Bellasio. La radio buona. Intanto, first sniff. I cagnolini, quelli erano carini. Quelli sono i carini, perché i cagnolini che si annusano per la prima volta, cagnolini carini. E poi, bambini, non ascoltate se parlate l'inglese, first hand job. Hand job, lo puoi tradurre? No, non lo traduciamo, anche se il termine è tecnico. Il primo approccio che si vedeva solo dalla vita in su, perché erano indaffarati a fare da soli, ma non da soli. Ecco, da soli ma in compagnia. Da soli ma in compagnia per la prima volta. Andiamo velocemente, non so se beh, però mi ha fatto veramente ridere quello lì, anche perché non è spinto. Cioè l'idea no, non è molto non è spinto, ovviamente, perché è tutta una parodia fatta da un gruppo di teatrale comico di Los Angeles che si chiamano Pimp's Girl. Cercatelo perché è veramente divertente. Cioè sì, l'idea cercatelo è spinta, se avete più di 18 anni comunque. Certo. Cioè, assolutamente. Ma anche in Italia c'è stata una parodia, l'ha fatta lo youtuber Tony Cotina. Cotina, sì. E anche qui guardiamone un estratto perché è molto carina. Ciao. Piacere, Tony. Tu come ti chiami? Hai dei begli occhi, sai? Non si possono spegnere le luci però perché... Piaciuto? Sì. Ha detto che ti chiami? Non mi ricordo. Peppa? Peppa è un asino. Sì. E bisognava spegnere le luci, infatti. Eh sì, perché lui era timido, perché da dare il primo bacio anche lui, e Peppa era un asino. Beh, carino questo video di Tony e Cotina. Chissà perché gli animali funzionano così tanto in rete. Comunque. Gli animali funzionano tanto in rete, io adoro i cagnolini. Vabbè. Allora, amore in rete. Cioè, ci sono come tema, non come... No, non come appellativo. Ci sono un sacco di video molto carini di youtuber molto simpatici. Questo video mi è piaciuto moltissimo. Loro si chiamano Nirchiop, vengono da Taranto e sono un gruppo di youtuber che fanno delle cose molto carine. In questo caso il video ci spiega cosa può succedere quando una donna ti dice ti amo. Cosa raro puoi fare? Ecco qua. Se quella con cui esci ti dicesse ti amo. Ti amo. Grazie. Arrivo! Non ti ha chiamato nessuno. Gli amici di Sento. Ho capito, sono tre volte che me lo dici. Se non ti rispondo ci saranno dei motivi, no? Vabbè, ti amo. Solo perché poi ti hanno detto amore e mi dici ti amo. Se avessero detto merda, mi avresti detto ti merda. Dai, non essere convenzionale. Becera è convenzionale. Io ti amo. Anche io mi amo. Mi amevi sempre. Ma perché vuoi rovinare tutto? Era così bello fare l'amore così, senza legami. Adesso mia moglie che dico? Moglie. E suocero. Socio. Il mio socio. Socio. Ah, e io sono gay? Bacio, mi sciocco. E tu chi sei? Non lo so. Ti amo. Non sento. Ho detto che ti amo. Non capisci che non capisco? Ti amo. No. Vabbè, questi Nirk. Grazie. La più bella è grazie per me. È bellissima. Anche io mi amo. A me piace anche non capisci che non capisco. È bellissimo. Sì. Loro sono Nicola Conversa, Mirko Mastrocinque, Gabriele Boscaino, non so come si pronunci, Anna Madaro, Davide Scialpi e Piero Madaro, e sono in Irchiop e sono secondo me molto bravi e molto divertenti, e questo dimostra che davvero in rete bastano le idee. Questa cosa è molto carina. Eh sì, la parodia poi va tanto. La parodia va tanto. Abbiamo parlato di Ren, altro che le cifre a 6, 5, 6, 0 con cui si fanno i video di moda. Loro sono riusciti a fare un video di grande successo di pubblicità. A proposito di video, noi prima prima di concludere, visto che tu mi accusi sempre di essere cinica, volevo così salutarti con un video che a te sicuramente piace tanto, per farti un pochino di così, un po' di essere un po' meno cinica. Eccolo qua. Quando cammino su queste dannate nuvole, vedo le cose che sfuggono dalla mia mente. Niente dura, niente dura, e questo lo sai, però non ti ci abitui mai. Quando cammino in questa valle di lacrime. Eccolo qua, vabbè, è tornato Vasco Rossi. Vasco Rossi l'aveva promesso su Facebook ai suoi fans, ai suoi numerosissimi fans, 3.751.000 su Facebook, mica pochi. Aveva promesso un'anteprima mondiale esclusiva et abusiva, come dice lui, anche se un po' mi mancano i suoi fantastici clippini. Adesso li sta un po' centellinando, ne fa Sai un che pochino io c'ho meno. Già i biglietti per luglio a Milano. Ah, vabbè, ma lo sapevo. Allora, la primavera bussa alla porta, è puntuale, arriva la sorpresa promessa al suo pubblico da Vasco Rossi. È arrivato ieri, il 14 marzo, pubblicato in un CD singolo con foto e poster all'interno, e si chiama Dannate nuvole. A me quando Vasco fa le ballad piace tanto. È proprio, cioè, i biglietti è due però non è detto che il secondo sia per te. No, non lo so, vabbè, guarda, so che sono troppo cinica. Daniele, sì, come passa veloce il tempo quando sì, ci si diverte. Come passa veloce, benissimo. Devi dirmi qualcosa? No, io volevo salutare Alberto Infelise e le sue straordinarie agenzie finte, soprattutto quelli che gli chiedono se sono vere. Volevo salutare Pio Amedeo, che sono stati con noi e che saranno al Cima dal 20 marzo, non me li perderei. Beh, salutare tutte le coppie che si sono baciate, ma soprattutto vorrei salutare la Raffa. E la prossima volta riuscirà a distinguere i maschi dalle femmine, chi lo sa. Ah, prima la intervisti, poi dopo la critichi. No, io te l'ho detto, secondo me non lo vedeva perché era da lontano. Secondo me me l'ha fatta apposta per l'audience. Comunque va bene. Vabbè, è finito il tempo del nostro RadioTube di questa settimana. @MartaCagnola, @DiBellasio, #RadioTube. Vabbè, noi ci sentiamo la prossima settimana. Sì, ciao Vasco.